Alberto di Clipper, Doriana Panico o Panico, che dir si voglia. Cecilia Miradoli di Pander, di Pindar. Ale Trinity di Della Grazia Obliqua e di Face to Grace, che ascolteremo questa sera con Valerio Michetti. Allora, cominciamo finalmente, lo facciamo con un lavoro molto particolare, appartenente a un piccolo grande fenomeno che è scoppiato nel 2021 e che porta il nome di Io sono un cane, nome molto bello peraltro. Abbiamo qui sotto mano un doppio CD che ci ha sorpreso personalmente, avevo qualche prevenzione a tal riguardo, ma siccome diciamo personaggi fidati me ne parlavano bene in continuazione, sono andato a toccare con mano e soprattutto con orecchie, e quindi ho scoperto un artista che credo soprattutto negli ultimi tempi si è dedicata a una efficace fusione di elementi tra ambient, elettronica, post rock, un po' alla Sigur Rós. E quindi lo cominciamo a scoprire insieme, anche per quelli che magari ne sanno ancora meno di me. L'album si chiama Ira e ci ascoltiamo le prime due tracce dal primo CD, Hiver e Ashes. Ancora un grisonello, pieds nus. Ora io sono un cane, da questo Ira, terzo lavoro per questo artista sardo. Eccola qua, è già partita Hiver. Fishes. And I was born appunto. Abbiamo iniziato con questo piccolo grande caso del 2021 appartenente a Io sono un cane, dietro il cui pseudonimo si nasconde Jacopo Incani, artista sardo che non a caso è conosciuto dalla nostra maglia, che è giunto a questo terzo lavoro, Ira, che si sviluppa su due CD abbastanza lunghi tra kraut rock sperimentale, post rock, IDM, insomma un artista